Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Sono giornate difficili per tutti gli italiani, per tutto il paese. Allora, insomma, cerchiamo di tirarci su un po' di morale stasera, affrontando un capitolo della grande trasformazione che il sistema energetico sta attraversando, in cui l'Italia sta facendo scuola, possiamo dirlo una volta tanto. Allora, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di smart grid. Le smart grid sono la risposta a un nuovo modo di generare energia. Parliamo cioè della generazione distribuita, di tanti piccoli produttori di energia che si affiancano alle grandi centrali elettriche. È come se in un acquedotto i rubinetti dell'acqua si trasformassero improvvisamente in tante nuove sorgenti. Quindi l'acqua scorrerebbe dall'acquedotto agli utilizzatori, ma in alcuni momenti il flusso, per esempio, può invertirsi, cioè dai rubinetti che viene mandata acqua all'acquedotto. Lo stesso fenomeno si verifica nelle reti elettriche per effetto degli impianti eolici, degli impianti fotovoltaici e così via. In più, queste fonti di energia sono discontinue. Inoltre si sta anche affacciando la mobilità elettrica, che è un ulteriore fattore di complicazione. Insomma, le smart grid sono reti elettriche capaci di gestire questa complessità. Ne parlano tutti, ma se vogliamo trovare qualche applicazione pratica, per quanto anche insomma parziale o geograficamente limitata, è quasi certamente all'Italia che dobbiamo guardare. Nel nostro paese, infatti, sono stati avviati vari progetti pilota, casi praticamente unici, e stasera vogliamo parlarvi di 8 di questi progetti con l'aiuto del professor Maurizio Delfanti, del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, Politecnico che ha avuto il ruolo di consulente in 6 di questi 8 progetti. Buonasera Delfanti. Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, parliamo di 8 progetti che sono stati selezionati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e a cui è stato riconosciuto un particolare incentivo. Quali sono stati i criteri di scelta con cui sono stati individuati questi 8 progetti? Beh, un primo criterio di scelta è proprio relativo all'inversione di flusso, cioè al fatto che queste reti, come gli acquedotti che lei citava prima, in una percentuale di tempo significativa di un anno funzionino iniettando acqua verso l'acquedotto, ovvero iniettando energia elettrica dalle utenze diffuse verso la rete di distribuzione. E questo è il primo passo importante, ecco, aver evidenziato questo criterio. Ci fa un esempio di uno dei problemi che solleva questo fatto? Un esempio abbastanza semplice si riferisce alla cosiddetta regolazione di tensione, cioè il livello a cui si trova l'energia elettrica, la tensione a cui prelevano l'energia, per esempio dalle prese di casa. In presenza di tanti generatori diffusi, per esempio tanti tetti fotovoltaici, può accadere che il fluire dell'energia dal basso verso l'alto alteri questo livello di tensione rispetto ai valori desiderati. Altro criterio? Altro criterio a cui che tengo molto a sottolineare è il fatto che siano progetti concreti, cioè dimostrazioni in campo su delle reti reali. E un ulteriore requisito, anche questo molto importante, è circa i sistemi di comunicazione, che devono essere basati su protocolli pubblici, non proprietari, proprio perché dovranno girare tantissimi dati sulle reti e l'accesso a questi dati da parte degli utenti dovrà essere al minimo costo. Bene, allora andiamo su questi 8 progetti intelligenti. Quali sono, anche chi sono insomma i soggetti coinvolti, e quali sono soprattutto i benefici attesi, cioè cosa si sta mettendo alla prova in queste 8 location in Italia? E questi 8 progetti sono portati avanti da altrettante società di distribuzione che erano i destinatari dell'incentivo voluto dall'autorità. Mm-hmm. Sono sia società molto grandi come Enel, che per esempio, o anche A2A o Acea per Roma, che coprono sia contesti urbani come le ultime che ho citato, ma anche territori con minore densità come può accadere per Enel, e poi sono coinvolti anche altri distributori minori. Si stanno provando varie funzioni, alcune di quelle contenute nei requisiti che discutevamo poco fa, per esempio la regolazione di tensione. Per dare qualche distinzione, per esempio nei contesti urbani è molto studiato il problema di isolare rapidamente i guasti, proprio perché questo è complicato dalla nuova natura delle reti in cui l'energia arriva da più direzioni, e quindi nelle grandi città c'è maggiore attenzione alla qualità del servizio reso all'utenza e a interrompere rapidamente e selettivamente i guasti. Mm-hmm. Invece in altri contesti, per esempio quelli rurali, come è il caso di Enel che sta sperimentando a Isernia, sono provate funzioni più direttamente collegate alla generazione da rinnovabili. Per esempio è coinvolto anche un piccolo accumulo di energia proprio per sperimentare queste nuove funzioni necessarie in presenza di tanto sole e tanto vento come accade in quelle regioni. E sì, lì diventa indispensabile accumulare l'energia quando se ne produce in eccesso, una giornata di sole, un momento in cui il vento tira particolarmente forte, per poi poterla utilizzare quando invece c'è domanda e la produzione è scarsa. E dobbiamo ricordare che non bastano sistemi di accumulo di cui tanto si discute anche a livello livello tecnologico, ma è necessario che siano integrati in modo opportuno nella gestione delle reti. Ecco, perché poi c'è infatti l'altro capitolo molto importante, è proprio quello della comunicazione, cioè l'intelligenza della rete viene dal fatto che circolano molte più informazioni di prima, vero? Sì, è questa la differenza fondamentale tra le smart grid e una rete di distribuzione tradizionale, il fatto di aver aggiunto uno strato di ICT, di comunicazione, che permette lo scambio di informazioni tra i generatori diffusi sul territorio e i centri della rete, che poi fanno capo al sistema di governo del gestore della rete nazionale, che in Italia è Terna. Per sapere qual è il modo migliore di far girare l'energia istante per istante, ecco, quali sono gli strumenti di comunicazione utilizzati? Che reti si usano? In alcuni casi sono supporti dedicati, cioè messi in opera proprio per queste gestioni innovative delle reti elettriche. In altri casi, suggeriti anche da noi del Politecnico, si è voluto usare invece l'infrastruttura ICT esistente, cioè la rete internet pubblica che è già ampiamente diffusa sul territorio. Per esempio nei contesti urbani a Milano abbiamo una rete diffusissima e con prestazioni di elevato livello, che non dobbiamo per nulla pagare ad hoc per questi progetti, perché è già stata messa in campo per tutt'altri scopi. E questa è un'altra delle cose che state mettendo alla prova. Senta, molto velocemente, a che punto siamo? È ancora tutto sulla carta o c'è qualcosa di concreto? No, i progetti sono iniziati col 1° di gennaio di quest'anno e dureranno circa 3 anni, e quindi qualcosa è già fatto e qualcosa si sta facendo. Grazie Maurizio Delfanti. Grazie a voi, grazie a voi. È tutto, a domani.